lui che mi ha chiamato dicendo: mi hanno sparato, mi trovo in questo punto, vieni qui. Gli hanno detto qualcosa prima di aprire il fuoco? Facendo il suo solito percorso, due persone in scooter l'hanno sorpassato, affiancato. Così è stata la descrizione dell'autista di un camion che c'era dietro, e quello dietro ha sparato questi 5-6 colpi all'altezza della portiera. Aveva mai avuto minacce suo suocero oppure voi in ditta? No, la nostra realtà è simile a moltissime altre realtà industriali che a causa della crisi finanziaria e quindi di un discorso di rientro in tempi rapidi nello scorso anno, quindi nel 2011, ci ha visto costretto nei primi mesi di quest'anno a mettere in liquidazione l'azienda. È arrivato un nuovo socio, sono state aperte poi dal 21 giugno due nuove aziende e si è cercato di dare continuità al tutto, per cui non abbiamo mai avuto episodi né di tipo estorsivo né minacce. È qualcosa che ha a che fare anche con il clima generale anche in tutta Italia di crisi, che ci sia esasperazione negli animi, lo sanno leggere tutti, insomma. Da qui ad arrivare a fare un gesto simile, cioè, ce ne passa comunque, insomma. Con l'arrivo di un nuovo socio si è dato continuità, si è preservato il posto di lavoro a più di 40 persone, probabilmente le persone che non hanno trovato impiego sono andate in una mobilità volontaria, per cui non è che ci sono neanche delle situazioni estremizzate o con i di difficoltà, o di crisi o con le parti interne. Lo vedrei più come, non so, un episodio isolato di qualcuno che ha perso il lume della ragione, ha estremizzato una situazione di malessere. La gambizzazione in Italia purtroppo fa ricordare quella che avveniva contro gli imprenditori negli anni di piombo. Dobbiamo capire che non ci sono gli imprenditori che se la godono mentre c'è il povero operaio, siamo tutti nella stessa barca.